la realizzazione di alcun attivo da distribuire ai creditori concorsuali che hanno chiesto l'ammissione al passivo e quindi ha disposto a non procedere e, in altre parole, non ci sono soldi da restituire ai viaggiatori rimasti a bocca asciutta delle ultime vacanze appunto con Todomondo. E allora a questo punto cosa possono fare queste persone? Stamattina ci aiuta ancora una volta ad orientarci in questo campo l'avvocato Vittorio Bonaguidi, avvocato di Telefono Blu, SOS Consumatori, ma anche membro dell'AGIT, il gruppo avvocati giusconsumeristi italiani. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi. E allora, non c'è trippa per gatti, peraltro, e anche proprio dal punto di vista fallimentare una questione un po' complicata. Io mi ricordo quando parlavamo dei casi Parmalat, ma anche di Alitalia, cosa vuol dire insinuarsi al passivo e cosa vuol dire ottenere, guadagnarsi il diritto ad essere ristorati, ad essere risarciti proprio attraverso questa procedura. Magari facciamo anche un po' di ABC, avvocato, su questo. Ma sì, nell'ambito delle procedure fallimentari, quindi dopo che una società di capitali o di persone è stata dichiarata fallita, c'è anche da dire che dopo la riforma del diritto fallimentare ci sono dei parametri da codice fallimentare, insomma da legge fallimentare per poter essere dichiarati falliti. In questo caso Todomondo era una società che i parametri li osservava, cioè li superava le soglie di diciamo di produzione, di reddito. Ecco, non entrerei nei particolari in questo senso perché complicheremmo la vicenda, però sicuramente Todomondo superava le soglie e quindi era soggetto, come si suol dire, dichiarabile, fallibile, così è stato. Come primo atto il curatore, che è uno degli organi della procedura fallimentare, l'altro organo è il comitato dei creditori, oltre che il giudice delegato, il curatore comunque chiamato subito e tempestivamente, quindi con urgenza di atti, deve ricostruire il passivo come prima cosa e contemporaneamente andare anche a fare un'attività ricognitiva dell'attivo, cioè ricostruttiva dell'attivo eventuale. Perché diciamo eventuale? Perché può anche capitare che la società dichiarata fallita attivo non ne abbia più, massa attiva non ne abbia più, come si suol dire. Quindi beni, danari piuttosto che beni immobili, piuttosto che beni immobili registrati e quant'altro, non lo abbia più. Questo è il caso che sembrerebbe essersi verificato in Todomondo. Lei parla al condizionale, perché? Non è convinto di questo check-up che ha fatto il Tribunale di Genova? No, ma io non posso dire questo anche perché non ho avuto modo fino ad ora di esaminare con cura la richiesta del curatore, perché di questo si parla, è una richiesta costituita da un atto all'interno della procedura fallimentare con il quale il curatore ha, diciamo così in forma semplice, comunicato che non essendoci massa attiva, cioè beni all'attivo della società Todomondo, lui ai sensi di un certo articolo della legge fallimentare, credo che sia il 104, deve dichiarare non esservi massa attiva e quindi non esservi la possibilità di distribuire alcun bene attivo eventuale ai creditori che man mano si erano insinuati. Esattamente, che era quello che speravano i malcapitati turisti che si erano affidati a Todomondo per l'organizzazione delle proprie vacanze. Adesso queste persone, avvocato Bonaguidi, cosa possono fare? Perché chiaramente confidano ancora, almeno in un parziale risarcimento dei soldi che hanno letteralmente buttato via, e credo che la situazione sia diversa a seconda delle modalità con cui la vacanza sia stata prenotata attraverso questo canale, perché c'è chi ha acquistato per esempio un pacchetto tutto compreso, che si è rivolto direttamente al canale online di Todomondo. Quindi le situazioni sono diverse. Quali strade suggerisce di percorrere a questo punto? Beh, sicuramente, dopo aver esaminato attentamente le carte, credo vi possa essere una possibilità di impugnare il provvedimento del curatore presso la Corte d'Appello di Genova, perché a quanto mi consta sicuramente dovrebbero essere stati posti in essere degli atti di distrazione del patrimonio da parte degli organi gestori della società Todomondo, perché sono già state sporte diverse denunce per truffa e quindi da un punto di vista del diritto penale sicuramente io credo partiranno con dei conseguenti rinvii a giudizio delle azioni penali nei confronti appunto degli ex, diciamo così, amministratori della società Todomondo. E per quanto riguarda invece la parte civile, cioè quindi la possibilità appunto di coltivare ancora questo, questa insinuazione, sicuramente tutti i consumatori, quindi i turisti che hanno fatto istanza di insinuazione al passivo hanno possibilità di reclamare, di impugnare il provvedimento di comunicazione del curatore, che ripeto è un atto per certi sensi dovuti, però per certi aspetti dovuto, però deve essere un atto che ha una sua motivazione basata appunto sulla ricostruzione che fino adesso è stata fatta nell'ambito della procedura fallimentare, cioè bisognerebbe con questo reclamo, diciamo così, provocare, stimolare, provocare una ancora un'attività di indagine sulle azioni di natura societaria, ovviamente, compiuti dagli amministratori. Certo. Ecco, spero di essere stato chiaro. Cioè sembra... No, diciamo che la questione è complicata e bisogna per forza rivolgersi ad un legale, mi pare di capire, e forse qualche volta magari l'entità del danno non fa neanche valere la pena rispetto a tutta questa... Allora, diciamo, sicuramente la situazione è complicata, sicuramente l'ambito del diritto fallimentare è complicato, sicuramente quando ci sono situazioni di questo tipo ricostruire il passato, diciamo così, è complesso. Quello che si può sempre suggerire è di appunto rivolgersi a associazioni di consumatori o comunque a professionisti e professionisti quindi che le assistono, quindi legali, un pool di professionisti. E armarsi di santa pazienza per un lungo periodo di tempo, immagino, anche in un caso soprattutto come questo. Esattamente, per creare gruppo anche da parte dei consumatori e quindi non essere da soli, ecco, diciamo. Certo. Così. Avvocato Bonaguidi, io ho 30 secondi di tempo, poi devo lasciare la linea ad Alessandro Milan. L'anno scorso abbiamo avuto a che fare anche con Maier, la compagnia aerea low cost, per la cui mancanza di requisiti fiscali l'ENAC ha ritirato il permesso di volo. Poi abbiamo avuto il vettore low cost SkyEur per la compagnia aerea slovacca, che lo stesso è fallita, lasciando a casa un bel po' di passeggeri che appunto avevano prenotato viaggi con questo gruppo. Abbiamo qualche situazione problematica in vista quest'estate, secondo i vostri monitoraggi? Ah, beh, è una domanda da $1 milione, scusate la battuta. No, non mi risulta e spero che insomma, non, almeno la prossima truffa non sia così a breve, ecco, concedetemi la battuta. Certo, poi non sono sempre truffe, sono proprio a volte anche delle condizioni, come dire, finanziarie problematiche. C'è anche la questione di viaggi del ventaglio che vorrei affrontare, magari avvocato, la richiamo la prossima settimana perché anche quella è una partita aperta per un po' di turisti. Grazie, buona giornata. Molto piacere, buona arrivederci. Giornata. Alessandro, oggi parlo di previdenza complementare. Ciao. Alle 8:33 minuti, ben ritrovati. Le notizie in primo piano sull'inchiesta di Trani. Il presidente della Repubblica Napolitano cerca di placare le tensioni. Vanno rispettate le indagini e le ispezioni, dice, ma resta alta la tensione tra il ministro Alfano e il CSM. Tra l'altro, delle intercettazioni del caso di Trani ne parleremo tra pochissimo. Sulla situazione economica è intervenuto ieri al Parlamento europeo Mario Draghi. La ripresa è disomogenea, ha detto il governatore di Banca Italia. Debole in Europa, ancora fragile ovunque. Stefano Cucchi, morto il 22 ottobre scorso in carcere, ha subito lesioni, ma le cause del decesso sono la disidratazione e l'eccessiva perdita di peso. Lo ha stabilito la commissione parlamentare d'inchiesta istituita sul caso e la famiglia Cucchi dice confermati i pestaggi. Stasera per il calcio, infine, la Juventus è impegnata nel ritorno degli ottavi di Europa League a Londra contro il Fulham. All'andata finì 3-1 per i bianconeri. Allora, alle 8:34 minuti parliamo ancora di intercettazioni oggi. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Sì, certo, è un po' una provocazione il nostro sondaggio. Secondo voi è legittimo, è giusto sapere ciò che un uomo pubblico dice al telefono? È giusto leggerlo sui giornali? Insomma, ci si interroga, è inutile negarlo. Ancora una volta sulle intercettazioni, le tante frasi che leggiamo anche oggi su Repubblica, il giornale, su Libero, sul Fatto, sul Corriere, di quello che ha detto il Presidente del Consiglio nell'inchiesta di Trani. Parliamo di intercettazioni, lo facciamo. Voglio salutare il Vice Direttore di Libero, Franco Bechis. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti voi. Così come saluto il Segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Cascini. Dottor Cascini, buongiorno. Buongiorno. Anche se io vorrei partire da una città in provincia di Milano, Buccinasco, di cui saluto il sindaco Loris Cereda. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Allora, come definire quella che abbiamo letto sui giornali ieri da parte sua, se non cos'è una provocazione. Lei ha detto nei prossimi mesi, visto che fare politica ormai porta a un totale annullamento, pare così, della privacy, sentono tutti, il grande orecchio, il grande fratello, allora metterò sul sito del comune un dispositivo per ascoltare in diretta le mie telefonate. Ci sta pensando veramente? Sì, è stata certamente una provocazione, ma che ha un senso, io voglio rispettare la Costituzione, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, allora se qualche privilegiato ha il diritto di sentirsi, di orecchiarsi le mie telefonate, allora è giusto che lo facciano tutti, non ho niente da nascondere, allora va bene, se questo deve essere il prezzo che si paga per un impegno pubblico, lo pago, la prossima volta prima di decidere di candidarmi ne prenderò conto, tutti quelli però che fanno politica devono sapere che, come ha scritto, guardi, un giornalista che non è certo di centrodestra, Aldo Grasso, oggi ha scritto: l'abuso metodico delle intercettazioni telefoniche e la loro sistematica diffusione a mezzo stampa sono insostenibili, ormai l'hanno capito tutti, stanno portando questo paese all'annullamento di ogni libertà, a un grande fratello, a una tecnocrazia veramente preoccupante. Quindi lei lo vuole fare, cioè questo meccanismo state studiando, anche perché c'è un problema un po' di privacy, cioè se io la chiamo, magari la gente vuole ascoltare quello che dice lei, ma perché deve ascoltare quello che dico io? Che sì, sono infatti sono tre i problemi che dobbiamo risolvere. Il primo è la privacy dell'interlocutore, che potrebbe essere risolto da un messaggio preventivo che avverte: attenzione, guardi che lei sta parlando con questo numero telefonico in streaming sul sito, quindi tutti possono sentire quello che lei dice. La seconda preoccupazione è sui minori, perché oggettivamente le mie telefonate, anche se non ho nulla da nascondere, potrebbero avere anche contenuti non adatti a un ragazzino, ma anche proprio per la severità di certi commenti e o l'uso di un linguaggio da adulti. La terza preoccupazione è il costo, cioè io non voglio creare ovviamente un qualcosa che costi poi alla collettività, visto che lo paga il comune di Bucinasco, una cifra, cioè oggettivamente, ecco. Poi la quarta preoccupazione, che poi è la più bella, io mi auguro francamente che la gente abbia di meglio da fare che ascoltarsi le mie telefonate, ecco. Cioè, no, ma perché abbiamo capito, il sindaco di Bucinasco sta cercando uno strumento per mettere nei prossimi mesi la possibilità sul sito del comune di ascoltare in diretta le telefonate che lei sta facendo. Questo, insomma, sì. Come non so, segretario Cascini, prima di parlare della vicenda di Trani, cos'è, una provocazione? Però è un modo per dire, da parte del sindaco di Bucinasco, ormai siamo in una tecnocrazia del controllo del grande orecchio, allora io faccio così, visto che se fare politica questo è il prezzo da pagare, lo faccio. Infatti sono provocazioni che non aiutano la riflessione su questioni molto complicate. Se è vero che alcune intercettazioni hanno una forte rilevanza mediatica, e mi faccia dire subito che la pubblicazione sulla stampa di contenuti di intercettazioni coperti da segreto, senza che vi sia stato un provvedimento giudiziario di selezione di queste intercettazioni, senza che ci sia stata la possibilità per le parti coinvolte di interloquire sul contenuto e sull'ammissibilità di queste intercettazioni, è un fatto molto grave sul quale noi ci auguriamo possa essere fatta al più presto gli accertamenti necessari e individuati i responsabili. Però detto questo, non si può fare, come dire, una confusione tale dimenticando che questo strumento è uno strumento indispensabile di indagine per fatti gravissimi. Senza le intercettazioni non si scoprirebbero gli autori di omicidi, i narcotrafficanti e le persone che fanno sequestri di persone, i rapinatori e i fatti gravi di corruzione. Allora non si tratta di, con le provocazioni, di mandare questo messaggio secondo il quale saremmo tutti sotto controllo e saremmo tutti intercettati. I dati ci dicono che non è vero, che il numero di intercettazioni che si fanno in Italia sono tra le più basse in Europa. L'Italia fa solo intercettazioni giudiziarie perché è l'unico paese occidentale che non prevede intercettazioni di polizia, cioè intercettazioni senza il controllo dell'autorità giudiziaria. Sì. C'è un problema in Italia, noi lo diciamo da tempo, non c'è un problema di eccesso di intercettazioni, c'è un problema di garantire la riservatezza delle persone coinvolte nelle intercettazioni sotto il versante della pubblicazione dei contenuti. Cioè leggerle oggi sui giornali è quello che vorrei coinvolgere su questo Franco Bechis, il procuratore capo di Trani dice guardate è solo una sciagurata fuga di notizie che ha complicato tutta questa situazione. Bechis, la possiamo ridurre così? Intanto qui definiamo il problema, perché siamo in una situazione grottesca per cui una piccola procura, stiamo parlando di 16 magistrati credo che la compongano, quindi sono uffici che grosso modo hanno gente che lavora che si può conteggiare poco più di una classe di scuola. Di cui 4 si occuperanno di questo caso adesso? Sì, adesso che 25%. Ma da quegli uffici, cioè da una classe di scuola, escono le intercettazioni che finiscono sui giornali. E devo dire che una maestra, se si trova il vetro rotto in classe, fa in fretta a capire chi è stato, non ci vuole una grande inchiesta. Io posso mettere la mano sul fuoco che lì non faranno niente per capire chi è stato, come non hanno mai fatto niente i magistrati quando tocca punire i loro responsabili. È una delle caste che si autoassolve più di tutte, persino più dei giornalisti, che è già una bella casta. Ecco, quindi stiamo parlando di questo caso e l'aspetto grottesco è che chi è colpevole del tradimento del segreto istruttorio osa avere la faccia di mettere sotto indagine per violazione del segreto istruttorio il direttore del TG1. Ecco, siamo in una barzelletta davvero. Questa è la barzelletta. Cascini, su questo è vero che io non ho contezza di grandi sentenze di persone prese che hanno mai passato ai giornali e che sono state punite anche severamente. Perché voglio dire, perché le inchieste a volte viaggiano spedite da certi punti di vista e da questo punto di vista non so, si ha notizia, Cascini, di qualcuno punito per aver passato un fascicolo a un giornalista? Mi faccio dire che i casi di rivelazione del segreto come quello su cui stiamo assistendo di Trani non sono molto frequenti, cioè i casi che spesso ci scandalizzano sono casi in cui la pubblicazione avviene quando gli atti non sono più segreti, e infatti noi da tempo abbiamo proposto di restringere le maglie del segreto anche dopo la messa a disposizione delle intercettazioni delle parti del processo, quindi normalmente il fenomeno della pubblicazione delle intercettazioni non è un fenomeno illecito così grave come quello che si è verificato adesso. Secondo noi dovrebbe essere regolato anche quello, ma i casi di rivelazione di segreto sono pochi. Io mi rendo conto che Becchi se la fa facile e spero che però non voglia che noi applichiamo queste regole probatorie. Lui dice ci sono 16 persone che sono a conoscenza di queste intercettazioni. Lo correggo, c'è tutta la polizia giudiziaria che fa le intercettazioni, quindi arriviamo un a una cinquantina di persone. Cinquantina. Come lo scelgo il colpevole? A caso? O sono colpevoli tutti? Vede, purtroppo le regole delle garanzie valgono per tutti. C'è un'altra regola, se io chiamo il giornalista e gli chiedo da chi hai avuto questo materiale, il giornalista può rifiutarsi di rispondere. E la fonte è segreta. Perché la fonte è segreta. Allora io chiedo, perché ho l'umiltà di cercare di capire, a Bechis che è un esperto di indagini giudiziarie, di processi, di sentenze, visto che il suo giornale non si occupa di altro, quali sono gli strumenti investigativi per poter individuare i colpevoli? Perché appunto sono 16 persone, facciamo per alzata di mano, facciamo con la monetina, come lo troviamo il colpevole di questo fatto? L'accusa mi sembra di capire che Bechis, lei dice più che altro non c'è la volontà, lei dice, di trovarlo, no? Più che l'impossibilità, no? Questa è l'accusa. E non c'è più bisogno di dire altro. No, Cascini dice come fare a trovarlo? Cioè che fare? Se io convoco il giornalista di Repubblica, che pare sia stato convocato, uno è, ma che ieri le ha pubblicate, questo dice la fonte è segreta, effettivamente è così. Sì, sa che fare le indagini non è esattamente un'autostrada, però come le fanno su altro è abbastanza facile farla anche su questo, anche perché io ho detto le persone sono poco più di una classe, quindi certo sono 16 magistrati, poi ci sarà qualcun altro che ha avuto un ruolo in questa vicenda. Io spero che quando c'è un'inchiesta i magistrati non se la passino l'un con l'altro, soprattutto quando è segreta, no? Quindi non dovrebbero essere poi molte le persone che avevano diritto a sapere qualcosa di quelle carte, interrogarle, capire come, se c'è stato un rapporto con qualcuno. E perché non mettono sotto intercettazione quelli che avevano un ruolo in questa inchiesta per sapere se avevano un rapporto con uno dei giornalisti che pubblicato in anteprima gli atti, visto che le inchieste le fanno solo con le intercettazioni perché non sono più capaci a farle in altro modo. È un sistema molto semplice, sa come faremo facili i giornali così. Io per fortuna ho ancora un po' la passione per andare a fare le inchieste come si facevano un tempo, cercando di parlare con uno, con l'altro. Quello, con che ha scritto, quello che ha scritto Feltri un paio di giorni fa è: se intercettassimo i magistrati. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E allora ci chiediamo, vi interessa sapere ciò che un nuovo pubblico dice al telefono? Perché è forse anche di qualche rilevanza penale quello che sta succedendo in questi giorni, l'inchiesta di Trani. Sentiamo, ci ha chiamato l'800240024 Carlo da Milano, buongiorno. Ah, buongiorno. Che dice? La mia posizione è sicuramente sì, ci interessa, sarebbe bello fosse un comportamento simmetrico, quindi non nel caso in cui insediato un governo di destra, ma posizione in generale. Ma aggiungo, come ha scritto Maltese alcuni giorni fa proprio su Repubblica, che è quasi irrilevante se si configura o meno un reato, perché quando un Presidente del Consiglio fa pressioni su uomini che in un modo o nell'altro hanno una posizione, probabilmente grazie anche a dei suoi interventi, e dovrebbero occupare... Come è quasi irrilevante, nel senso, cioè lei vorrebbe ascoltare tutto? Come chiede il sindaco di Buccinasco? Si ricorda lei che qualche giorno fa ci si chiedeva, e lo stesso Berlusconi ha chiesto, no, la procura, sono indagato o no? Sì. Ma voglio dire, se uno fa pressioni perché una trasmissione che gli rema contro venga chiusa, ma voglio dire, è già un comportamento stigmatizzabile in maniera chiarissima. Ma questo, questo sarà poi da accertare No, ma poi si è scoperto che è indagato per concussione, quindi in questo caso particolare la cosa non è affatto irrilevante. Io dico che vorrei sapere da uomini di destra o di sinistra, ma che occupano posizioni di responsabilità, se i loro comportamenti sono diciamo all'altezza delle posizioni che ricoprono. Quindi bisogna essere più virtuosi più virtuosi. Ha sentito Bechis, bisogna essere virtuosi al telefono. Anche ieri abbiamo letto su Repubblica che Berlusconi è affranto perché la moglie, l'ex moglie o la moglie, insomma, Veronica Lario gli ha chiesto tot miliardi di... Anche questo evidentemente si deve sapere, perché è un uomo pubblico, no? Sì, ma infatti si sapeva, peraltro, senza bisogno di intercettazioni. Sì, va bene, al di là di questo. Che faceva il suo mestiere. Però Bechis, ecco, quello che dice Carlo scritto, è questo. Perché ci si arriva anche senza quei mezzuzzi facili. Quello che dice Carlo, però... Le dico un'altra cosa. Berlusconi in quella telefonata diceva un'altra cosa che mi ha colpito, che abbiamo letto sui giornali ieri. Il fisco mi chiede 900 milioni. E quindi, siccome la notizia non era nota, ho provato a verificarla. È lui che fa confusione tra fisco e sentenza, Mondadori, arrotondava le cifre e poi confondeva un po' le lire con gli euro. Insomma, al telefono uno è libero di dire quello che vuole. Però Bechis, l'accusa di molti è questa, l'accusa di molti è questa. Va bene, sono uscite, è stato un, come l'ha definito Capristo, cioè il procuratore capo di Trani, una sciagurata fuga di notizie. Il dato di fatto è che secondo molti, anche l'opposizione, quelle telefonate dimostrano queste pressioni del Presidente del Consiglio in maniera indebita nei confronti di alcuni membri della Agcom per intervenire e chiudere alcune trasmissioni. Allora molti dicono: vabbè, sarà uscita male, però vogliamo parlare del contenuto, cioè di un Presidente del Consiglio. Allora, innanzitutto qui parliamo di membri, di autority, un ex deputato di Forza Italia, le autority sono dei parlamentini, sbagliano a trattarle a destra e a sinistra, ma così fanno perché così le hanno elette, come se fossero delle dependenze dei partiti. Censurabilissimo, è un tema politico che peraltro non ci voleva molto a comprendere, perché anche questo lo si trovava tranquillamente nelle cronache dei giornali, perché Berlusconi se ne lamentava pubblicamente, diceva che c'era una campagna di odio nei suoi confronti e manco si sbagliava poi, perché poi tutta questa vicenda che lui evocava tra ottobre e novembre è sfociata nella statuetta del Duomo che gli hanno tirato addosso, quindi manco si sbagliava a ritenere che quella campagna d'odio potesse produrre qualcosa. Ma detto questo, erano lamentele che tutti abbiamo sentito pubblicamente nei confronti di Santoro. Ha una certa insofferenza per i programmi che lo criticano, e questo è vero. Peraltro è anche vero che quei programmi hanno montato spesso delle campagne molto intelligenti, ma che non sono proprie a guardarli di quello che è il prodotto di un servizio pubblico, ma queste sono opinioni che uno può avere la pensa in un modo, la pensa in un altro, e sono d'accordo. E il problema è che le intercettazioni non si usano così, perché se noi ci mettiamo a intercettare le telefonate private di alcuni magistrati, come si parlano nel loro ufficio, le assicuro che li mandiamo tutti in galera. Vabbè, su questo Cascini non so se... Lo assicuro, perché si sente ogni tanto come si parlano fra di loro. Cascini, c'è questo atteggiamento, dice Bechis, di intercettare, usare le intercettazioni, ma è indebita e poi con le intercettazioni... Il problema è che Bechis è un garantista dell'ultima ora, cioè... ha una concezione del garantismo a corrente alternata. Quando si tratta di parlare di alcune persone di un certo schieramento politico è garantista, ma poi gli viene fuori un'anima reazionaria per cui vorrebbe mettere tutti in galera senza prove. Ogni tanto gli scappa, diciamo così, perché è la sua natura più vera. Ma venendo alle cose serie, se si vuole parlare seriamente di queste cose bisogna distinguere i fatti. Le intercettazioni non devono uscire se non sono rilevanti per il processo penale. Devono essere fatte, perché sono uno strumento essenziale di indagine, devono essere fatte con i limiti rigorosi posti dal codice di procedura penale, non devono essere pubblicate. Guardi, io su questo però vorrei invitare anche la stampa a riflettere. Siamo così sicuri che è giusto pubblicare intercettazioni che sono state acquisite illecitamente? È giusto pubblicare il corpo di un reato? Io non sono così sicuro che sia una cosa che va bene. Sì, è vero, c'è la libertà di informazione, c'è il diritto dovere di informazione, ma anche quando queste informazioni vengono da reato, e credo che il vice direttore Bechis se ne sappia qualcosa, perché ultimamente si è scoperto un caso di rivelazione di segreti, la telefonata di Fassino acquistata illecitamente dal suo giornale e pubblicata. Ma forse no, forse quello è il giornale e non Libero, però. Sì, ma lavorava per Libero. Vabbè. Non so se questo Bechis c'entra, però questo sposta un po'. Certo. Non so. No, perché il punto è questo: è chiaro che noi dobbiamo fare il possibile e avere gli strumenti per evitare che ci siano fughe di notizie, e dobbiamo cercare gli autori di queste fughe di notizie, dobbiamo regolare meglio il sistema delle intercettazioni, l'abbiamo chiesto da 10 anni al Parlamento, di intervenire su questo, non di limitare l'uso delle intercettazioni, ma di limitarne la loro fuoriuscita indebita. Non si riesce ad avere una legge su questo. Forse si dovrebbe anche riflettere sul fatto se devono essere pubblicate o no delle intercettazioni senza che ci sia ancora un accertamento sulla loro rilevanza nel processo. Io però, siccome mi devo fermare, Bechis, ma ho 10 secondi, questa vicenda, perché la sentivo replicare su questa telefonata, Fassino, il giornale, mi chiarisce se lei... No, semplicemente, non era una telefonata pubblicata da Libero e quindi c'entra niente il giornale per cui io scrivo. Io peraltro allora scrivevo su Italia Oggi o su Milano Finanza, che sono i giornali per cui ho lavorato prima. Vabbè, ma non... In ogni caso, ha detto, ci sono migliaia di intercettazioni pubblicate dai giornali, migliaia di fughe di notizie, guarda caso, l'unico caso perseguito è una pubblicazione sul giornale che riguardava un leader non riapriamo un altro un altro sottocomplotto. No, ci fermiamo, non c'è tempo. Grazie Giuseppe Cascini, Franco Bechis, anche il sindaco di Buccinasco, grazie Loris Cereda. Ci fermiamo, Sara Spreafico in redazione e Peter Bescapè in regia. Do la linea a Oscar Giannino. Ci potete scrivere bianco o nero @radio24.it. A domani.